Europa 24. Benvenuti a Europa 24 e un saluto da Livia Zancaner. Oggi parliamo di fisco, di evasione e delusione fiscale, un tema di stretta attualità a livello europeo, soprattutto dopo il caso LuxLeaks, l'inchiesta sulle agevolazioni fiscali concesse dal Lussemburgo alle grandi aziende multinazionali. A Bruxelles è in corso una consultazione che si concluderà a settembre sul piano presentato a giugno dalla Commissione europea, che punta a garantire una tassazione più equa e trasparente. Le proposte si basano su tre punti, come ci spiega Stefano Simontacchi, esperto dello studio Bonelli Arede. Il piano presentato dalla Commissione europea si basa su tre pilastri: il rilancio della CCCTB, la Common Consolidated Corporate Tax Base; secondo, assicurarsi una tassazione effettiva da parte dei gruppi multinazionali attraverso operazioni anti-elusione e il monitoraggio dei ruling; terzo, l'aumento della trasparenza delle informazioni. L'idea della CCTB è attribuire il livello impositivo agli stati europei relativamente al profitto consolidato che ha fatto una multinazionale sul territorio europeo secondo delle chiavi di allocazione forfettaria. Sostanzialmente io prendo poi il profitto della Fiat e dico: la Fiat ha fatto 1 miliardo di euro in Europa, benissimo, quanti dipendenti ha in Italia, quanti asset tangibili, quindi impianti, stabilimenti ha in Italia, quanto fatturato fa in Italia, quanto fa in Francia, e sulla base di quello io ripartisco il profitto. La colpa, sottolinea Simontacchi, è dei singoli paesi che hanno stretto accordi, i ruling appunto, con le singole multinazionali. Il 90% dei problemi che ci sono stati e il 90% dei casi che sono saliti alla ribalta giornalistica non ci sarebbero stati se i governi, se le amministrazioni finanziarie si fossero comportate in modo fair tra di loro. Cioè, tutti questi casi muovono dietro al fatto che alcune amministrazioni finanziarie sostanzialmente volevano fregare le altre per attrarre lì una multinazionale, per avere dei posti di lavoro, eccetera, eccetera. Questo è il tema. Quindi, se la trasparenza venisse applicata anche tra governi, il 90% dei problemi sarebbe risolto. E questa è l'azione 2 della Commissione europea. La Commissione europea ha chiesto a tutti gli stati europei, inclusa l'Italia, una serie di ruling che questi stati hanno sottoscritto con le multinazionali. E sta andando a vedere quali stati si sono comportati bene e quali male. Il piano della Commissione serve proprio per evitare che si ripetano fenomeni di questo tipo, racconta Mercedes Bresso, coordinatrice della Commissione Affari Costituzionali al Parlamento Europeo per il gruppo dei Socialisti e Democratici. Controlli sull'effettiva consistenza delle ricchezze nei diversi paesi e norme relative alle imprese, che sempre di più cominciano a dire: noi trasferiamo la sede Lima, pagheremo le tasse in Italia. Ovviamente il problema è quali tasse pagano in Italia e quindi come si definiscono queste regole. Il mandato è stato chiaro: non vogliamo più che avvengano fenomeni come quello del Lussemburgo, ma Lussemburgo è un esempio perché la Gran Bretagna fa lo stesso, lo ha fatto Cipro, lo fa l'Olanda, lo ha fatto l'Irlanda, l'ha fatto persino l'Islanda. Quindi l'obiettivo è questo. Adesso ci sono delle prime proposte su cui noi non abbiamo ancora iniziato a discutere come Parlamento, sulle quali tutti stanno posizionandosi. Una volta raccolte le proposte, partiranno poi le discussioni. Noi ci aspettiamo di poter iniziare a discuterne al più tardi entro l'anno. Bisogna dare un paio di mesi alla Commissione per raccogliere tutte le proposte e fare una proposta a quel punto formalizzata. A quel punto noi possiamo iniziare, i tempi possono non essere lunghi, ma sarà più complicato il lavoro del Consiglio, perché il Consiglio ha gli stati che hanno vantaggi da questa situazione e quelli che hanno degli svantaggi, quindi trovare un ragionevole accordo sarà meno facile in Consiglio che in Parlamento, dove si può formare più facilmente una maggioranza favorevole a dare delle regole chiare su queste questioni. Trovare un accordo non sarà quindi così facile, anche se i singoli stati si sono impegnati a collaborare. Ed è tutto quindi per questa edizione di Europa 24. Ancora un saluto da Livia Zancaner. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.